La gente che oggi parla ci vuole raccontare le solite stronzate con cui bombardare la testa della gente e delle persone che sconvolte sparano a zero dal cannone. Attacchi, litigi, violenze, questo e altro, tanto nella vita conta essere il più scaltro. Non importa se sei alto, bello, tonico, importa soltanto a quanto venti un ettolitro. Non esiste più l'amore vero, quello che ti fa arrossire, quello più sincero. Esiste soltanto l'apprezzamento verso il denaro, e se non è per quello, direttamente per l'oro. Il futuro a questo punto non mi piace per niente, se si presenta così è veramente indecente. Deludente come ogni mia aspettativa, insoddisfacente come tutta questa gente. Non si pone tutto su un piano senza avere in mente un piano da far gola al più incompetente. Gente che fa di sé uno strumento per potersi pagare il lift sotto al mento. Meglio vivere a stento. Sì, sì, sì, questa è la vita purtroppo. Oggi che la vita è strumentalizzata, oggi che la vita è stata reimpostata, oggi che la vita è super pagata, oggi che la vera vita è stata scordata. Gente strapagata per visitare un paesino, gente strapagata per baciare un bambino, gente strapagata per leggere un fogliettino, gente strapagata su un tarocchino. Accendo la TV e incomincio a guardare un mondo che in realtà lo posso solo sognare. Guardiamoci negli occhi, non è mica Natale, non è che tutti i giorni puoi mangiare carne di maiale, non è che tutti i giorni tardi ti puoi svegliare, decidere tu dove andare a lavorare. Lo schifo mi viene quando penso che certa gente sto sogno lo vive come arricchirsi e non dar più conto a nessuno. In questo paese il sogno di più di qualcuno. Vorrei essere anch'io un bel presidente, politico o senatore, sempre sorridente, che viene pagato per essere un latente e che si arricchisce contento la gente legalmente. Sì, quello accade oggi. Oggi che la vita è strumentalizzata, oggi che la vita è stata reimpostata, oggi che la vita è super pagata, oggi che la vera vita è stata scordata. Gente strapagata per visitare un paesino, baciare un bambino, leggere un fogliettino.